9 in punto, la versione di Oscar. Oscar Giannino torna a salutarvi e torna a ricordarvi che potete chiamare all'800 24 00 24 per raccontarci qualche vostra considerazione su questo tema che abbiamo deciso oggi di mettere al centro della nostra riflessione con i nostri ospiti insieme a voi, il dolore, la sofferenza. Naturalmente non sto chiedendo confessioni intimistiche, sto parlando di che cosa l'esperienza della sofferenza e del dolore significa nell'organizzazione della nostra società, nell'illusione dei criteri culturali di consumo che fanno le nostre abitudini. Dico illusione perché noi viviamo un modello per il quale si pretende di essere sempre giovani, in perfetta efficienza, fino al punto tale in cui però ci si imbatte nell'arco della vita, nell'esperienza delle nostre famiglie, in esperienze di malattie, di patologie magari gravi o magari estreme, che magari diventano terminali, e a quel punto si scopre di doverci si inoltrare in una specie di continente nuovo e diverso rispetto al modello culturale che tutti pratichiamo, quello in cui la sofferenza e il dolore sono esperienze tirate fuori, separate dal resto dell'organizzazione della vita, del lavoro, e quindi ci si isola, ci si spezza nel rapporto con chi è più caro e chi più vicino, spesso ci si spezza con la propria identità psicologica interiore. Insomma, vi chiedo di raccontare tutto questo, perché lo facciamo oggi. Vi presento il nostro ospite. Abbiamo in linea il Cardinale Patriarca di Venezia, Sua Eminenza Angelo Scola. Buongiorno Eminenza. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti. Ecco, e con lei oggi abbiamo posto questo tema perché lei ieri, in occasione della festa del Redentore, la festa in occasione della quale il Patriarca di Venezia manda una lettera pastorale a tutte le sue pecorelle, ha posto esattamente il tema della sofferenza e del dolore al centro di questa lettera dedicata all'umana sofferenza. Posso chiederle di ricordarci, lo ha fatto ieri sul Corriere, ma insomma è tutto partito da un'esperienza concreta, cioè da un incontro con un malato. No, di più di un malato. Io sto facendo da 5 anni la visita pastorale, che è uno dei compiti fondamentali di un vescovo in tutte le parrocchie, e quindi ogni settimana quando vado in parrocchia i parroci mi conducono a visitare 4 o 5 ammalati più gravi nelle varie famiglie. Così in questi anni sto avendo l'occasione di incontrare moltissime persone, talune delle quali sono realmente in situazioni di malattia grave ed estrema, e ciò che raccontavo nell'intervista era il caso che mi ha molto colpito di un ammalato 48enne di SLA che poteva comunicare solo con le palpebre superiori, attorniato però dalla moglie e da 3 bimbi, il maggiore di 12 anni, che lo aiutavano con una speciale cartella a muovere le palpebre a secondo della lettera, e lui ha voluto dirmi, sorprendendomi molto con questo metodo, che era molto contento di vivere. Questo è stato il punto di partenza, perché mi ha fatto capire che noi abbiamo un'idea dell'attualità che è epidermica, come spesso succede in tutta la nostra vita. L'attualità è solo ciò che capita, sono gli intrighi della società, i delitti, la politica, ma invece c'è un'attualità che chiamerei antropologica, e la sofferenza da questo punto di vista è profondamente attuale, come lei ha detto poco fa, perché non fosse altro per il fatto che, come diceva lo strano e paradossale romanziere francese Houellebecq, la morte è come un rumore di fondo che non cessa mai di accompagnarci lungo tutto l'arco della nostra vita. E quindi capire, comprendere questo mistero del dolore e della sofferenza, guardando i volti di questi ammalati, ascoltando i loro discorsi essenziali e sobri, è diventata per me una questione indilazionabile, è stata una provocazione fondamentale, a cui poi si sono aggiunte le gravi disgrazie del terremoto d'Abruzzi, la tragedia di Viareggio, la guerra, la fame, eccetera. E allora ho voluto quest'anno fare una riflessione sul tema del dolore e della sofferenza. Vede Eminenza, io mi sono molto grato, perché a me l'esperienza del dolore, la cognizione proprio nei reparti dei terminali che ho fatto negli anni, mi ha molto cambiato, mi ha cambiato dal punto di vista di ciò in cui credo, mi ha cambiato dal punto di vista di ciò che sia giusto dare agli altri, e mi ha cambiato però anche nel giudizio di come questa società è organizzata, nel senso che l'esperienza di vedere in alcune regioni d'Italia, pochissime, la Lombardia è una di queste, per esempio, e il potere pubblico più pronto a capire che chi è gravato da patologie croniche del dolore o da, da fasi terminali del, sì, del male, e in quel caso bisognerebbe organizzare una sanità, una cosa in cui, certo, si tenta di farlo a casa, di non levarlo dai contesti in cui, verissimo, sta. Ecco. Allora, questo non denuncia forse il fatto che noi ci riempiamo la bocca di buoni sentimenti, ma in realtà viviamo in un contesto nel quale non siamo più capaci di praticarli perché abbiamo paura del dolore, tutto qua. Certo, lei ha usato una formula molto preziosa, molto precisa e diciamo anche molto presente nella grande tradizione cristiana, ha usato l'espressione cognizione del dolore, ecco, questo è fondamentale. La cognizione del dolore è la questione tra le principali che ci riguarda personalmente, ma è anche la cartina di tornasole della qualità di una civiltà. Una civiltà che non affronta in termini organici e realistici il problema della cura in senso largo, non solo della cura intesa come terapia, ma della cura intesa come accompagnamento. Una società che non capisce che inguaribile non vuol dire incurabile e quindi non si fa carico di accompagnare la persona che è nella prova, nel dolore estremo, nell'ombra della morte, fino al termine della sua vita e oltre il termine della sua vita, secondo me non ha ancora toccato punti elevati di civiltà. E è vero che tutto questo è dovuto ad una sorta di rimozione del dolore, della sofferenza e della morte. Del resto questo è della rimozione della morte e dei suoi anticipi, è un tema estremamente classico, basti citare il grande desiderio, il grande invito di Rilke, la sua preghiera bellissima: Signore, dona a ciascuno la sua morte personale, e l'affermazione di Adorno che diceva che in una società come questa si crepa e basta. Ma questa rimozione, direi, è tanto più paradossale quanto più la tecnoscienza, per usare questa espressione certamente imprecisa, sta facendo scoperte strabilianti e promette paradisi terrestri, prolungamento della vita fino a 120 anni, addirittura ci sono già realtà che investono nel tentativo attraverso le bioconvergenze di vincere la morte. Ecco, come succede che di fronte a queste scoperte clamorose ed eclatanti, nel concreto poi del quotidiano, gli anticipi di morte legati soprattutto alla malattia estrema, sono spesso rimossi? Appunto, la causa di tutto questo è che noi, almeno io lo dico perché mi sono accorto di questo appunto ascoltando gli ammalati, che noi viviamo alla superficie, anche quando siamo impegnati, perché certamente almeno in un paese come il nostro la stragrandissima maggioranza degli uomini e delle donne si dedica con grande energia al lavoro, eccetera, però è come se rifiutassimo di scandagliare fin nelle profondità il senso del nostro quotidiano e di mettere davanti a noi stessi quelle che sono le domande realmente sostanziali e che ci permettono di stare sulla terra con i piedi piantati, con una speranza nel cuore, che sono le grandi domande di tutti i tempi: chi sono, da dove vengo, dove vado, perché il dolore, cos'è la morte, cosa dopo la morte, perché l'amore, perché procreare, perché generare. Ecco, è come se queste domande restassero sempre implicite. C'è come una strana tentazione, una strana cospirazione a tacere dell'io. Sì, e poi io trovo, Eminenza, che ci sia una specie di collasso più che quotidiano tra l'importanza assoluta data alla corporeità come espressione centrale, certo, preeminente, insomma, del nostro essere qui in questo tempo, su questo pezzo di cosa che gira per lo spazio, rispetto al fatto che poi ogni sia pur minima menomazione di questa corporeità, che deve essere sempre perfetta, levigata, giovanilissima, eccetera, eccetera, diventa qualche cosa di che di cui non riusciamo a interrogarci, non riusciamo a risolvere, cioè ogni menomazione della nostra piena corporeità diventa qualcosa da nascondere più o meno tecnicamente. Abbiamo un genitore che ci chiama ad intervenire, Enrico da Rimini, ascoltiamolo un secondo, Eminenza. Enrico, prego, parli. Sì, buongiorno a tutti, grazie per avermi permesso di intervenire. Io volevo così riportare la mia esperienza. Io sono il babbo di un bimbo autistico, non so se tutti sanno, l'autismo è una malattia cronica che dura tutta la vita, viene riscontrata nei primi anni di vita e non ci sono cure e non si sa neanche da che cosa è causata. Io credo che il vero problema sia da riporre anche nella formazione che diamo ai nostri ragazzi. Io credo che non rendere protagonisti i compagni di classe delle cure, delle prestazioni che bisogna porre al mio bimbo, ad esempio, che sono terapie molto semplici da sottoporre perché sono terapie didattiche, quindi si lavora per immagini, si lavora per piccole cose, ma farlo mediare da un insegnante di sostegno al gruppo classe, questo significa evitare l'esperienza diretta dei ragazzi della classe con le persone, ad esempio, con autismo. Bene, a Rimini abbiamo fatto una prova diversa e abbiamo fatto in alcuni casi lavorare i compagni di classe a turno al posto dell'educatore con i nostri bambini. Bene, è successo una cosa strabiliante. Innanzitutto un miglioramento globale della classe nel lavoro di gruppo e nella capacità di comunicare. Il bambino con autismo che era molto più motivato ad ottenere dei risultati. Tutta la classe cosciente di che cos'era l'autismo, di come si doveva trattare, del perché di certi comportamenti. Bene, io sono convinto che questi ragazzi, compagni di classe dei nostri bimbi, avranno una marcia in più in futuro. Grazie Enrico. Io personalmente vado un po' più avanti. Io sono convinto che bisognerebbe, che sia profondamente sbagliato evitare le esperienze di aiuto ai malati e di aiuto agli anziani da parte dei giovani. Sono convinto che sia profondamente sbagliato. Io sono convinto, nella mia esperienza, conoscendo come i maschi, quando si ammalano di malattie che hanno a che vedere col cancro, per esempio, di solito hanno una reazione, con tutte le approssimazioni delle medie, però constatata da parte mia e confermata anche da rilievi statistici, hanno una reazione di cedimento psicologico, soprattutto i maschi, che hanno meno a che fare con l'esperienza di banale dolore fisico nella vita, parto, cose di questo genere qua, perché non hanno mai avuto esperienze dirette di che cosa vuol dire sofferenza, dolore, malattia. Non sto parlando in termini di un accanimento psicologico, sto dicendo che il fatto di non vedere più la gente ammalarsi in casa, morire in casa, cioè quello che avveniva, insomma, fino alla generazione dei nostri padri, dei nostri nonni, provoca una incapacità psicologica che può essere poi radice di una propria sconfitta, di una propria molto grave, e che comunque rende i giovani, per esempio, incapaci di occuparsi di questo problema molto serio. Secondo me li rende anche più deboli psicologicamente. Lei che dice, Eminenza, questo problema della... Condivido moltissimo questo giudizio e, per esempio, anche la tentazione ormai diffusissima di nascondere l'esperienza della morte ai bambini, per esempio, no? Io mi ricordo quando ero piccolino ci si portava a vedere morire in un certo senso pacificamente i nonni, e questo discorso della compagnia, della condivisione, del tenere la mano al moribondo, non è soltanto un modo di accompagnamento di colui che sta morendo e di passaggio alla mano provvidenziale del padre, ma, come lei ha detto, è una condizione assoluta di crescita della persona. Cioè la nostra vita è attraversata sempre da circostanze dolorose e sfavorevoli a tanti livelli, e non stiamo parlando della forma più terribile del male, che è il male morale, che è il male che noi compiamo. E quindi non l'uomo che non conosce il proprio limite a tutti i livelli, l'uomo che non sa riconoscere le proprie fragilità fisiche e morali e non sa farci i conti, non può diventare un uomo maturo. Di questo dico con umiltà, la mia lunga esperienza di sacerdote e di educatore, sono profondamente convinto. Da questo punto di vista l'esperienza di Enrico sembra a me veramente molto bella, senza qui entrare nella questione che è tecnica, che lasciamo ai pedagogisti, degli insegnanti di sostegno o meno. In ogni caso questo coinvolgimento dei compagni del suo figliolo è realmente una strada eccezionale, e io credo che tante preoccupazioni che noi oggi mostriamo di avere nei confronti degli adolescenti, il bullismo eccetera, sarebbero più facilmente superabili attraverso esperienze di solidarietà quotidiana di questo genere, piuttosto che con tante grida e con tanti divieti che si pensa di poter imporre, come detto Cassana. Noi sappiamo che la legge è decisiva, importante, perché crea costume, ma la legge da sola non basta. Quindi bisogna rendersi conto che una delle conseguenze della grande fecondità dell'esperienza del dolore che Gesù crocifisso ci ha insegnato è proprio che erige personalità adulte capaci di stare nella vita in maniera solida e con prospettiva. La nostra società è una società in mutazione rapidissima, si trasforma il senso degli affetti, il senso del lavoro, il senso della vita, molte illusioni nascono, bisogna porre in questa società qualcosa di solido, qualcosa di duro. Allora l'affronto equilibrato del problema del dolore, della sofferenza e della morte è realmente un fattore di civiltà ed è un problema personale, sociale e politico nello stesso tempo. Eminenza, dal suo punto di vista, che contraddizione esprime questo paese che da una parte esplode in un dibattito profondissimo, violentissimo, direi, quando si tratta di esaminare le conseguenze pubbliche di alcuni casi come quello di Englaro, e che poi in realtà concretamente, se davvero si dovesse prendere sul serio tutto questo impegno, tutta questa passione, persino radicale, nell'identificare quali sono le condizioni estreme di una vita degna fino alla fine, ecco, fa così poco poi per le cure palliative. Cioè, che cosa ci dice questo paradosso? Questo è veramente un grave paradosso. In effetti, secondo me, il discorso delle cure palliative, come quello della terapia del dolore, è un discorso molto serio e decisivo, e bisogna che le nostre autorità politiche si decidano ad affrontarlo con energia. Ma lei prima ha usato un'espressione molto bella, che ha colpito molto anche me in questa esperienza di visita agli ammalati. Ha parlato di vita degna. Ecco, io oso porre realmente una domanda frontale a tutti i nostri ascoltatori. Ma si dibatte molto intorno alla morte degna. Io mi chiedo se questo tema della morte degna, che ha alle spalle il discorso dell'eutanasia, non sia questa domanda sulla morte degna non sia una domanda di noi sani. Io ho avuto l'impressione che gli ammalati desiderano una vita degna fino all'ultimo istante, e la vita è degna quando uno è capace di amare e quando uno si sente veramente amato, amato definitivamente fino e oltre la morte. Cioè, non si può non tirare in campo la questione dell'amore, che è l'energia vitale, quando è ben inteso, quando è inteso come l'amore oggettivo, non soltanto come la passione soggettiva, l'amore quindi che è costitutivamente fedele e fecondo. Allora l'amore diventa quella modalità di relazione che consente anche al malato terminale, al di là delle comprensibili angosce, al di là direi dell'importantissimo livello psicologico, però di guadagnare una pace di fondo per consegnarsi all'autore della vita. Ecco, a me sembra che è come se noi dovessimo accettare fino in fondo e promuovere con politiche adeguate tutto quello che la tecnoscienza ci offre per ridurre al massimo la malattia, per curare il dolore, però dovessimo evitare l'illusione di trattare l'uomo come se fosse l'esperimento di se stesso. C'è un prima, la scienza lavora sempre su dei dati che deve prima porsi, ma l'impeto iniziale del mio io è la mia libertà, e la libertà è capacità di uscire da me sempre subito nell'immediato, per usare una parola difficile, è una capacità di auto trascendermi, di andare oltre in forza di una energia che ho dentro. E il cuore di questo andare oltre è l'amore. Insomma, l'amore, quando è vissuto, genera realmente civiltà, vita buona, e la vita buona domanda buon governo. Quindi bisogna assolutamente che anche nel nostro paese, non solo in certe regioni più ricche, la questione delle, come lei diceva, sia delle cure palliative che della terapia del dolore riceva i mezzi finanziari adeguati, perché l'accompagnamento dei malati incurabili, dei malati inguaribili, non precipiti in una non cura. Ecco, questo mi sembra molto importante. Io ringrazio Sua Eminenza perché ci ha dato questa mezz'ora. Noi continueremo poi, ora dopo la pausa pubblicitaria, a interrogarci su questi temi con gli ascoltatori e con altri esperti. Come avrete dedicato, questo è una come avrete capito, questa puntata è un po' anche autobiografica, perché io mi occupo davvero di assistenza ai volontari e sono sempre alla ricerca di nuovi argomenti per tentare di alleviare ai terminare il loro ultimo passaggio, ma soprattutto per imparare da loro. Vi garantisco che io ho imparato più da loro che in tutto il resto della mia vita. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando oggi di dolore e sofferenza, della centralità di queste categorie che tendiamo sempre un po' a illuderci di dover e poter non incontrare nella vita. Quando le incontriamo poi ci scopriamo un po' poco preparati, sia individualmente che dal punto di vista del contesto sociale. Abbiamo Francesca in linea, Francesca da Arezzo, prego. Buongiorno. Buongiorno. Niente, un tema molto interessante, una trasmissione bellissima, che tanto che le parole sue e del Monsignore sarebbe da farne un manifesto, e sottolineo ogni parola per quanto condivido. E volevo così portare velocemente la mia testimonianza e dire che quando il dolore ti si presenta è destabilizzante, all'inizio ti è una bomba, dopo si vive, se riesce un po' a prenderlo come un momento prezioso, come noi si è vissuto l'ultimo 2 mesi in casa con il marito malato terminale, accompagnato con le cure palliative. Ci vuole una grande rete di protezione intorno, perché da sola, al di là l'amore solo non basta, perché fisicamente reggere 24 ore su 24 uno non ce la può fare. Però io ho avuto la fortuna di avere figli e amici e abbiamo vissuto questo tempo terribile, ma anche, sembra una bestemmia, quasi anche bello, perché erano stati, si è vissuto ogni momento nella consapevolezza che era un tempo ultimo e prezioso, e questo ci ha lasciato, nonostante il dolore, dopo la morte un senso di pace, che credo che sia una cosa molto importante, senza sensi di colpa, senza... Volevo portare questa testimonianza. Grazie molte a Francesca. E abbiamo con noi per questa seconda parte il professor Francesco D'Agostino. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Che è il presidente onorario del Comitato Nazionale per la Bioetica, insegna filosofia del diritto all'Università di Tor Vergata a Roma, e poi la professoressa Giovanna Rossi. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Che insegna sociologia della famiglia alla Cattolica di Milano. Ecco, professor D'Agostino, tra i tanti temi che stiamo solo sfiorando, ma che sono al centro di questa lettera pastorale di Sua Eminenza Scola, se ne è toccato uno che insomma ci ha appassionato molto qualche mese fa, come italiani intendo, cioè quello di un intervento di legge che definisca bene quando si stacca la spina, per intenderci, mi sto riferendo al caso Englaro. Ecco, da quel punto di vista, secondo lei, la radicalità del confronto che c'è sempre in politica, in Italia, sui giornali, su un tema come quello, è una radicalità che esprime un ritardo o esprime invece il fatto che su questi temi la società italiana è più avanti del legislatore? A mio avviso esprime semplicemente la consapevolezza che l'etica medica tradizionale, l'etica medica ippocratica, sta entrando in una crisi che io spero non sia irreversibile, ma è veramente visibile. per secoli, secoli e secoli i medici sono sempre stati convinti che il loro dovere morale, oltre che scientifico, era quello di impegnarsi per la vita e di combattere sofferenza e morte. Recentemente sembra invece che questa consapevolezza stia scricchiolando da tutte le parti, ed ecco allora che la società civile si impadronisce di un tema che non era mai stata abituata a discutere in profondità, ed ecco allora che arriva l'appello al Parlamento perché intervenga a porre ai medici e in generale a tutti coloro che si prendono cura dei malati delle precise norme a salvaguardia della vita. È un tema che va molto al di là del dibattito politico e partitico di questi ultimi mesi. Ma secondo lei, davvero alla luce anche della rapidità con cui evolvono pochi anni, talvolta lo stato parziale delle nostre cognizioni scientifiche, ha senso che lo stato preciso dal quale far dipendere decisioni in merito alle funzioni di mera sopravvivenza di un corpo, eccetera, eccetera, lo si faccia per legge? Purtroppo sì, nella situazione almeno italiana di oggi, perché abbiamo dovuto prendere atto, per quello che mi riguarda con molta tristezza, che la Cassazione ha stabilito e ha mandato direttive ai medici per il trattamento di pazienti in stato vegetativo, arrivando addirittura a prescrivere l'obbligatorietà di alcune particolari terapie, di alcune particolari tecniche di palliazione. È stata la Cassazione a dire che alla povera Eluana dovevano essere somministrati ad esempio dei farmaci antiepilettici. Allora, di fronte a questa impressionante espropriazione da parte dei magistrati di competenze che devono essere lasciate alla saggezza e all'esperienza dei medici, o ci arrendiamo e diciamo che i magistrati in Italia sono onnipotenti e hanno loro il potere di dare ordini anche agli scienziati, oppure dobbiamo riportare nella sede centrale del potere politico, cioè della sovranità popolare, queste tematiche che invece saggiamente per 2000 anni erano state affidate alla deontologia medica. Io condivido molto quello che ha detto il professor D'Agostino, attenti che è stata la magistratura a fare di questo caso, come di tanti altri casi, ma di questo caso il caso per cui alla fine la palla di neve ha iniziato a rotolare sul declivio fino a quello poi che è successo. Abbiamo un ascoltatore, Mattia da Bologna. Prego, Mattia. Sì, buongiorno. Io volevo intervenire e rivolgere una domanda anche in relazione a quello che diceva prima il cardinale. Io ho recentemente accusato la perdita di un'amica e volevo chiedere questo, cioè il sacerdote durante il rosario che ha guidato diceva che la prima evidenza della realtà è che la vita non è nostra, cioè come diceva lei prima, l'esperienza della morte prima o poi incombe, tutti ne facciamo esperienza. Ora, io sono giovane, ho 25 anni e mi chiedevo e vi chiedevo come si fa a tenere a mente, come si fa a tenere presente durante la nostra vita di tutti i giorni, durante le nostre giornate, questa pesantissima realtà, cioè che c'è nella nostra vita, no? Grazie a Matteo. Io non sono, faccio né il pastore di animi né lo psicologo né, io invito tutti i padri a farlo nei confronti dei loro figli, ma i giovani come lei eccetera, eccetera, io invito tutti a darci una dimensione di aiuto agli altri, cioè attraverso l'organizzazione di volontariato si può apprendere una condizione diretta del dolore, della sofferenza agli altri, rendendosi utili, tentendo dal basso, con la sussidiarietà, con l'impegno di ciascuno di noi, di estendere e migliorare ciò che il pubblico può offrire ai malati, agli anziani, alle patologie terminali. Ci si può specializzare in questo, lo si può fare dando tutti una mano, innanzitutto a se stessi, per affrontare al meglio queste cose quando ci capiteranno, e poi agli altri. Però c'è un punto, perché ci dobbiamo occupare della dimensione pubblica di questa cosa, di una dimensione sociale. Professoressa Rossi, quanto nel discorso di oggi pesa anche il fatto che siamo un paese organizzato in maniera da non incentivare troppo, lo dico da tutti i punti di vista, innanzitutto da quello fiscale, da non incentivare troppo la famiglia, cioè il fatto di avere portato la famiglia, che pure è la componente fondamentale, il nucleo fondamentale dell'integrazione, anche di reddito innanzitutto del nostro contesto sociale. Però il fatto di avere al contempo una tradizione a chiacchiere molto incentrata sulla famiglia, di fatto una tradizione, un'organizzazione che la disincentiva, quanto conta sulla incapacità, sulla debolezza della struttura famiglia di fronte a fenomeni come questi quando la impattano violentemente? Certamente quanto lei osserva è molto importante, perché di fatto noi ci troviamo in una situazione sociale in cui la famiglia è stata enormemente privatizzata e quindi è stata anche invitata ripetutamente ad una forma di ripiegamento su di sé che non le ha consentito di esprimere la sua vera natura, che è quella del prendersi cura delle relazioni sia interna alla famiglia ma anche delle relazioni con l'esterno. Questa penalizzazione della famiglia dipende proprio da una cultura, da un'impostazione che negli anni abbiamo subito e che anche il livello politico non è mai stato in grado di risolvere, non ha mai affrontato in modo completo. In particolare, in rapporto al tema di cui stiamo parlando oggi, che è il tema della cura, che è il tema della cura della sofferenza, voglio segnalare che, come peraltro le testimonianze bellissime delle telefonate hanno evidenziato, che la cura a cui la cura della famiglia, la cura che la famiglia può offrire in queste situazioni, ha una qualità relazionale che è incommensurabile rispetto ad ogni altra. E l'unica analogia che possiamo fare con la cura familiare è l'esperienza a cui lei faceva riferimento, cioè l'esperienza del volontariato. Perché? Perché hanno al loro interno una stessa cultura, che è la cultura del dono. Questo è un elemento, è un tratto fondamentale della cura del familiare. E quindi credo che questa penalizzazione della famiglia, questa mancanza anche di sostegno, ad esempio, di tutte le forme associative, pensiamo a chi ha malati psichici. Ci sono moltissime associazioni di carattere familiare che con il mutuo aiuto, con un costante accompagnamento, aiutano chi ha questo problema a trattarlo in un modo più umano, affrontandolo con realismo, ma anche con una possibilità di uscire dal circolo vizioso pesantissimo che ad esempio la malattia psichica, questa è una mia esperienza familiare legata al mio nucleo, ai miei fratelli, e è un'esperienza questa difficilissima da portare. Ecco, allora il fatto ad esempio che nel nostro paese non ci sia sufficiente riconoscimento dell'azione che a partire dalla società civile si sviluppa e che rende possibile in una sinergia anche con le istituzioni, qualora esse siano disponibili, rende possibile questa valorizzazione, è un deficit molto rilevante. Professor D'Agostino, nella sua esperienza, lei sono tanti anni, è stato proprio uno dei membri fondatori del Comitato Nazionale per la Bioetica, ma io continuo a non capire una cosa, l'ho anche chiesto a Cardinale Scola prima, e trovo che ci sia qualche cosa che non mi torna in un paese che tanto dice ci vuole una legge per decidere quando si stacca la spina e così via, e poi dall'altra, nella mia esperienza concreta delle cure palliative e delle terapie del dolore cronico, noi siamo un paese che ha standard totalmente disomogenei a livello nazionale. Abbiamo indicatori come per esempio il consumo di non opioidi FANS, che sono il tipo di medicinale che vanno per i primi gradi del dolore veramente serio, fino poi agli opioidi di vario tipo. Abbiamo consumi standard di questo tipo di farmaci totalmente disallineati rispetto a quello della media di tutti gli altri paesi avanzati. Cioè, nella mia esperienza concreta, siamo un paese che a chiacchiere vuole fare tutto ciò che è giusto, leggi accuratissime, perché ciascuno deve essere posto al meglio e libero di decidere di se stesso. Dall'altro poi, in concreto, per centinaia e centinaia di migliaia di pazienti che hanno condizioni di dolore molto profondo, molto radicale, non li curiamo e non diamo loro quello che è giusto dargli, con grande indifferenza, devo dire, a questo anche. Come si spiega dal punto di vista suo, uno che per anni, ripeto, si occupa dal punto di vista della filosofia del diritto e della tecnica del diritto di questi aspetti? Guardi, c'è una spiegazione molto triste che molti condividono, ma io non saprei dire se è del tutto esatta, e cioè le terapie palliative sono costosissime, Le terapie palliative sono estremamente complesse ad impararsi e a somministrarsi. La nostra università, le facoltà di medicina, solo in piccola parte e in parte molto inadeguata, forma i medici alla palliazione. Qualcuno aggiunge a queste tre spiegazioni una quarta spiegazione. Nella psicologia del medico, il singolo medico vede se stesso come colui che guarisce la malattia o cerca di guarire la malattia, mentre il medico che pratica la palliazione sa fin dall'inizio che egli non guarirà il paziente dalla malattia, ma si limiterà a alleviare i suoi dolori. E questo, alcuni dicono, induce molti medici a non dedicarsi alle cure palliative, come se fossero meno nobili e come se fossero tali da dare meno soddisfazione professionale ai medici che ne praticano. Ohimè, questa scala di ragioni non è una cosa che ci possa molto rassicurare. Eccoci tornati in studio per quest'ultima parte. Ci stiamo occupando del dolore, della sofferenza, di come attrezzarsi psicologicamente, spiritualmente, ma poi anche di come attrezzarsi come società nei confronti di questo tema che spacca e divide poi nel dibattito pubblico. Abbiamo Marco da Varese, credo che sia Varese, anche se mi hanno scritto Vasere, ma credo che sia Varese. Marco, prego. Buongiorno, grazie per questa opportunità. Io sono un ragazzo di 25 anni, sono studente di medicina. In questa trasmissione io ho sentito il Cardinal Scola, ho anche letto la sua intervista di ieri sul Corriere della Sera vorrei dire questo. Io posso essere d'accordo sul fatto che è molto importante affrontare il tema della sofferenza e prepararsi alla sofferenza, ma da qui a sentirmi, pur essendo cattolico e praticante, d'accordo con la legge del PDL che impone a tutti sostanzialmente un sondino, anche a chi per quella che è la sua malattia, per quella che è la sua esperienza di vita, è arrivato a un punto tale che dice adesso è il momento di andare, è il momento in cui posso finalmente consegnare al Padre il mio spirito. Ecco, questo io non posso essere d'accordo, e non solo, ma se uno guarda il codice deontologico, visto che c'è il professor De Agostino, l'articolo 53, per esempio, il rifiuto consapevole a nutrirsi, un medico di fronte a un paziente che consapevolmente rifiuta di nutrirsi, deve spiegargli le possibili conseguenze del suo gesto, ma poi non può obbligarlo con misure coercitive a nutrirsi, pur continuando ad assisterlo. Cioè c'è un rispetto della vita del paziente, ma anche della libertà del paziente. È chiarissimo quello che ci ha detto Marco. Io ho aspettato appunto una chiamata come questa perché mi sembra giusto rappresentare questo punto, che è un punto importante, perché è un punto che ci interroga su l'espressione della libertà di ciascuno di noi, nell'individuare le condizioni dalle quali far dipendere lo staccare la spina. Io stesso, a dire la verità, ho disposizioni in materia per quello che mi riguarda. Ancora un ascoltatore, poi torniamo con i nostri ospiti, il professor D'Agostino e la professoressa Rossi. Abbiamo Daniele ci chiama da Cuneo. Prego Daniele. Allora, buongiorno a tutti e scusatemi per eventualmente qualche volta che mi inciampo nelle parole. Prima di tutto, allora, io vengo fuori da un'esperienza che sono stato 8 mesi completamente muto e paralizzato per un cavernoma. Tutti mi davano per spacciato. Colui che mi ha operato veniva davanti, c'era presente mia madre e mia moglie, diceva tanto deve morire, no? E con l'affetto dei miei familiari, degli amici, sono sempre andato avanti. Tutti i giorni il parroco veniva, mi faceva la comunione, mi ha persino dato l'estrema unzione, e sono uscito fuori solo grazie all'amore di quelli che mi sono stati vicino. Sono stato 20 giorni in rianimazione e l'ho sempre percepito l'amore che era vicino, di coloro che mi stavano vicino. E quindi non potrà mai essere una legge che regolamenta i fatti umani, però non serve a niente. Grazie Daniele per l'intensità di questa diretta testimonianza. Io vorrei che il professor D'Agostino desse una risposta al nostro amico che chiamava da Varese. Io faccio presente che su quale sia l'irreversibilità di alcune condizioni, su quale sia il livello dei diversi stati di coscienza associabili, le diverse reazioni della corteccia cerebrale associabili ad alcuni interventi, che alcuni sviluppi che bloccano invece il resto della funzionalità cerebrale. E su tutto questo io vi invito a pensare sempre che la frontiera delle nostre acquisizioni e cognizioni è una frontiera in perenne avanzata. Quindi quando si mette tutto e si cristallizza in una legge, o addirittura lo si mette nelle mani di una sentenza interpretativa da attuare poi magari dalla Suprema Corte, a me vengono un pochino i brividi. Ma professor D'Agostino, lei cosa risponde alle considerazioni del nostro giovane medico formando di Varese di prima? In prima battuta sembrano perfettamente condivisibili. Ognuno di noi dovrebbe avere il diritto di decidere per se stesso e per le terapie che vuole o non vuole ricevere. Però se andiamo a guardare la realtà dei casi, i malati che si trovano in situazioni estreme, nelle quali dovrebbero prendere queste decisioni altrettanto estreme, sono sempre malati fragilissimi, sono malati anziani, sono malati in stato di confusione mentale, sono malati terribilmente impauriti, sono malati molte volte in stato di abbandono, sono malati la cui volontà è altalenante. Ecco il vero cuore del problema bioetico: stabilire attraverso una buona normativa che questi malati non devono essere abbandonati, devono essere tutelati e protetti. L'enorme rischio che noi corriamo, esaltando, in modo che io comprendo pienamente, il diritto all'autodeterminazione, è che lentamente questa pretesa di autodeterminazione divenga eterodeterminazione, che ci sia qualcuno, il medico, un infermiere, ma purtroppo a volte anche dei familiari, che pretendono di prendere decisioni estreme al posto del malato, e decisioni che magari ne favoriscono la morte o ne favoriscono l'abbandono. Ecco perché la legge che speriamo il Parlamento approvi deve essere una buona legge difensiva, garantista, che dia a ciascuno di noi la tranquillità che se andiamo in ospedale in uno stato di confusione mentale o addirittura in coma, tutto il sistema ospedaliero combatte a nostro favore e non ci lascia soli e non ci abbandona. Professoressa Rossi, che cosa ci dice invece della storia recente del nostro paese il paradosso tra una radicata presenza in molte aree del nostro paese, penso alle misericordie, insomma, al mondo di cui abbiamo parlato prima, al mondo dell'impegno diretto da una parte, e dall'altra una capacità invece del sistema pubblico, della sanità molto disomogenea di sapere fare leva su questa forza? È un segno della secolarizzazione del paese, è un segno del fatto che rimaniamo un paese diverso nelle sue aree, per cui in realtà ci piace rappresentarci con un'identità tra virgolette cristiana storica, ma nella realtà poi la storia locale è molto più frastagliata e aspra anche di scontri di quanto questa identità cristiana presunta volesse dire. Lei cosa pensa in proposito? Ma il tema che lei propone è un tema molto importante nella relazione con le istituzioni pubbliche che si occupano di fatto della materia sanitaria e si occupano delle cure, perché al di là di tutto quanto anche si è detto in modo abbastanza improprio in questi anni, noi non siamo in una situazione per cui il principio di sussidiarietà, che pure molti hanno utilizzato in questi ultimi anni e si sono un po' riempiti la bocca, il principio di sussidiarietà sia effettivamente riconosciuto. Mi riferisco al fatto che Il lavoro delle organizzazioni di volontariato, lei faceva riferimento all'esperienza ricchissima delle Misericordie, è in, molte regioni visto come un lavoro, un impegno che di fatto non è alla pari con. C'è una sudditanza tuttora che viene di fatto praticata anche in tutti i programmi a livello operativo, anche nelle regioni migliori, cioè c'è una sudditanza, non si coglie cioè che questo nucleo fondamentale che è rappresentato dalle organizzazioni di terzo settore nei confronti del tema della cura, questo nucleo fondamentale che fa riferimento squisitamente al tema del dono, al tema della gratuità, è importantissimo per la trasformazione del sistema delle cure nel loro complesso, cioè lo si vede come qualche cosa che sostituisce se ce n'è bisogno, no? Ma non in una prospettiva di effettivamente di valorizzazione, di riconoscimento di una differenza nel modo con cui di fatto l'approccio di queste organizzazioni tratta il tema della malattia. In altri termini, dobbiamo dire che bisogna fare molta strada per riconoscere una differenza, per riconoscere un'identità a queste organizzazioni e per stabilire una relazione virtuosa nella prospettiva che da molti viene segnalata, che è il tema della governance, cioè governare nei contesti territoriali, anche micro, in un modo relazionale diverso l'apporto di tutti. Volevo aggiungere però una piccolissima osservazione in rapporto al quanto veniva chiesto prima da Marco, perché il tema è cruciale dal punto di vista il tema della libertà, la libertà della persona. E in aggiunta a quanto diceva il professor D'Agostino, volevo sottolineare che ad esempio il caso Englaro, mi riferisco a questo caso perché tutti noi siamo stati molto coinvolti a livello emotivo e anche a livello operativo, perché abbiamo preso delle iniziative, abbiamo aderito a iniziative che altri hanno preso e allora in questo caso c'è un aspetto che mi permetto di sottolineare, è di fatto il tema dell'abbandono. Tutti erano abbandonati e questo padre stesso in realtà era in una situazione di abbandono, ma non riuscendo probabilmente per tanti motivi ad affrontare questa cosa, non si è reso conto che c'era qualcuno che non abbandonava. Fino rapidamente, professor D'Agostino, quello che l'operatore sanitario, ma anche quello che il contesto sociale può fare di fronte a queste situazioni è certamente quello di offrire delle cure amorevoli che accompagnino e che non rendano possibile il diventare tragica della situazione di solitudine delle persone. Grazie professoressa Rossi, la devo interrompere perché per me il tempo è tiranno. Avete capito che questo tema del dolore è un tema per me centrale. Io sono dell'idea che le società si organizzano intorno a queste grandi categorie del sentimento che poi la radice dell'interrelazione umana. Quindi grazie al Cardinale Scola oggi, al professor D'Agostino e alla professoressa Rossi, grazie a Carmelo Lauricella in regia e a Gloria Guerrera e Laura Faggini in redazione. A domani la linea Giornale Radio. Yeah.